Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Mario Amato è un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piazzale Clodio a Roma. È un magistrato preparato, il suo stile investigativo è meticoloso e nel 1980 Mario Amato conduce delicate indagini sulle attività dei NAR, nuclei armati rivoluzionari. Un gruppo della destra eversiva romana responsabile da 2 anni di omicidi, ferimenti, attentati, rapine di autofinanziamento. Giugno 1980. Alle 8 del mattino, Mario Amato esce dal portone di casa. Se ne va a piedi alla fermata dell'autobus di Viale Iornio. Aspetta tranquillo il 391. Non è armato. Non possiede una scorta. Non si volta neppure. Gira per Roma a quell'ora come un qualsiasi impiegato di banca, uno studente. Dall'altra parte della strada, una moto di grossa cilindrata, una Honda 400 rossa, calibra al centimetro i movimenti di Amato. Poco più di un secondo. Ciavardini accende il motore della Honda. Cavallini avanza, senza un copricapo per nascondersi. Amato è fermo all'ombra di un platano. La giornata è già calda. Cavallini gli si avvicina alle spalle. Estrae una pistola a tamburo. La punta proprio vicino all'orecchio destro e spara. Il magistrato cade a terra, riverso sulla schiena, senza un gesto. Gli occhi sbarrati, le mani piegate in avanti, un vestito grigio, una borsa con i documenti. La gente intorno scappa terrorizzata. Cavallini e Ciavardini fuggono a tutta velocità per la città. Il delitto è eseguito da 2 killer, ideato e organizzato dall'intero gruppo dei NAR. Scrivono i terroristi nel volantino di rivendicazione dell'omicidio di Mario Amato. Oggi, 23 giugno 1980, alle 8:05, abbiamo eseguito la sentenza di morte emanata contro il sostituto procuratore Mario Amato, per le cui mani passavano tutti i processi a carico dei camerati. Oggi, egli ha chiuso la sua squallida esistenza imbottito dal piombo. Altri ancora pagheranno. La vendetta è sacra. Troppo spesso ci si nasconde dietro frasi come «non abbiamo le armi» o «non abbiamo i soldi». Soldi e armi sono per le strade e basta anche un coltello per cominciare. Non c'è bisogno né di covi né di grandi organizzazioni. 3 camerati fidati e buona volontà bastano. E se 3 non ce ne sono, ne bastano 2. E non diteci che non ci sono 2 camerati fidati. Per comprendere il lavoro del sostituto procuratore di Roma, Mario Amato, sulle giovani leve del neofascismo, dobbiamo compiere un salto indietro di qualche anno. I nuclei armati rivoluzionari sono formati da giovani militanti usciti dal FUAN, l'organizzazione giovanile universitaria del movimento sociale italiano. Sono in gran parte figli della borghesia romana. I leader più importanti frequentano la sede del FUAN di Via Siena. Giuseppe Valerio, detto Giusva Fioravanti, Cristiano Fioravanti, Alessandro Alibrandi, Francesca Mambro, Dario Pedretti, Franco Anselmi. A loro si aggiungono il milanese Gilberto Cavallini, personaggi più vicini alla criminalità organizzata, la banda della Magliana, come Massimo Carminati e Claudio Bracci, ragazzi provenienti dal gruppo di destra Terza Posizione, come Luigi Ciavardini e Giorgio Vale. Il gruppo ha già firmato pagine nere del terrorismo politico a Roma e il personaggio chiave resta Franco Anselmi, perché la saga dei NAR parte proprio dalla sua morte. Seguiamo la traccia. Roma, 6 marzo 1978. 2 ragazzi ben vestiti entrano in un'armeria del quartiere Monteverde e, pistole alla mano, si impossessano di armi, gioielli e denaro. Altri 2 li aspettano fuori su un'auto e una moto rubate. Mentre escono col bottino c'è uno scontro a fuoco. 3 riescono a fuggire, il 4 perde la vita sulla porta del negozio. È Franco Anselmi, 22 anni, iscritto al primo anno di legge all'Università di Perugia, dove divide un mini appartamento con Massimo Carminati. Ha cominciato la sua attività politica 5 anni prima nel Fronte della Gioventù.

E una ho visto come un flash, aveva i capelli lunghi, ma si è messo subito il passamontagna, e anche gli altri ci hanno buttato sul letto, a me e mio marito, ci hanno legato, bavagliato con lo scotch, quello da pacchi, e lì siamo rimasti. E per lì ho pensato fossero dei rapinatori, perché era già successo che erano venuti dei ladri qua vicino, ma poi ho cambiato subito, perché ho pensato subito che erano per Valerio, anche perché avevano cercato lui. Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a raccontare la storia di Mario Amato. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Valerio Verbano scheda a uno tutti i militanti dell'estrema destra romana, le attività dei nuclei armati rivoluzionari e di terza posizione. Raccoglie in pochi mesi informazioni riservate che scrive in un dossier fitto di nomi. I killer dei NAR li pedina anche di sera, li fotografa da mesi. Si apposta davanti ai loro bar, segue gli spostamenti, annota i contatti. In quelle carte vengono indicate anche rapine di autofinanziamento, azioni davanti alle scuole, nelle sedi dei partiti, raccolte biografiche sui personaggi, cenni sulla nascita dei gruppi di quartiere, sui dissidenti di terza posizione. Il giudice istruttore di Roma, Claudio D'Angelo, trasmette una copia del materiale raccolto a casa di Verbano al magistrato romano Mario Amato, che indaga sulle attività della destra radicale romana. Il sostituto procuratore della Repubblica, Mario Amato, è un segugio. Trova gli indizi che portano ai NAR, nuclei armati rivoluzionari. Riscontri documentati, ma non ancora prove. C'è una luce ancora accesa negli uffici della Procura di Roma. È quella di Mario Amato. Sulla sua scrivania sono accatastati migliaia di fogli, verbali, dossier, chiusi dentro faldoni archiviati a mano. Si dedica alla ricerca dei collegamenti tra fatti e persone, ma gli elementi che può ricavare dai vecchi processi sono scarsi, fuorvianti, non attuali. Mario Amato intuisce la gravità e l'estensione del fenomeno della destra eversiva a Roma. Amato però è isolato, nessuno lo scorta e lo protegge. Con Mario Amato lavora un funzionario della Digos dotato di notevole professionalità. Eppure le inchieste sulla destra eversiva romana sono pericolose. I mezzi di cui dispone sono quelli di qualsiasi sostituto procuratore. Non viene sollevato dal lavoro ordinario. Buona parte delle sue giornate sono assorbite da udienze, turni, istruttorie di routine. Ai suoi colleghi lascia una frase che sa di testamento: da solo non ce la faccio più. Mario Amato però non demote, testa bassa come un ariete, ricostruisce indizio dopo indizio l'immenso puzzle di un'indagine non ancora compiuta. Mancano tasselli importanti, verifiche e magari ancora un po' di fortuna. Mario Amato parla spesso della sua convinzione che l'organizzazione fascista Ordine Nuovo si sia ricostituita sotto altro nome, dopo lo scioglimento ufficiale decretato dal Ministero dell'Interno anni prima. Ma chi sono i nuovi neri, si chiede spesso Mario Amato. Scrive Mario Amato: il vertice dell'organizzazione pesca nell'ambiente dei giovanissimi, appartenenti alla media e all'alta borghesia, figli di professionisti. Vengono da famiglie per bene. Insomma, tra loro potrebbe esserci anche mio figlio. Amato è instancabile, meticoloso, senza l'ausilio del computer ricostruisce le connessioni tra destra eversiva e banda della Magliana, intuisce i legami tra potere finanziario e quello politico, lavora senza sosta ma viene ucciso pochi giorni prima del terzo salto di qualità dei NAR, 2 agosto 1980, strage alla stazione di Bologna. Nella Dalla sala d'aspetto di seconda classe entra un uomo con una borsa valigia in mano, di quelle con la cerniera e i piedini metallici. Si guarda intorno. Tutti parlano e leggono. Un uomo, una valigia, niente che possa destare sospetti. Elementi e situazioni scontate in una stazione. Ognuno preso dentro un attimo di vita, normale. Non badano a quello che accade. Non prestano granché attenzione. Nessuno lo vede. Nessuno lo scorge tra tanti volti. Un sospetto, una circostanza, una testimonianza, un indizio, uno scatto, un'occhiata, niente. L'uomo depone la valigia sul tavolino portabagagli, a 50 centimetri dal suolo, accanto al muro portante della sala. Il timer è già azionato, puntato su dei numeri digitali, le 10:25. Dieci minuti e poi la strage. 25 kg di esplosivo gelatinato Compound B, di tipo militare. Nitroglicerina, nitroglicol, nitrato ammonico, solfato di bario, tritolo, stronzio, nitrato sodico e T4, tutti compressi in una valigia, di aspetto normale, con un innesco costituito da un temporizzatore artigianale di natura chimica. Una miscela devastante. 10:25. 85 morti, 200 feriti. È il pianto e il dolore di una città. Perché allora uccidere Mario Amato? Forse bisognava fermare i piani dei terroristi prima della strage alla stazione di Bologna? Francesca Mambro, al microfono di Raffaella Calanda, spiega come sono nati NAR e perché si giunge all'omicidio del magistrato. Il giudice Amato, c'è stato un processo, ci sono dei colpevoli, condannati, e tra l'altro questa è una vicenda che riguarda anche noi, dove noi ci siamo assunti la responsabilità politica e morale di questo fatto. Quindi è vero che sei stata tu a coniare la sigla NAR? Ma sì, diciamo che quelli erano tempi in cui c'era molta energia, per cui eravamo lì che ogni giorno volevamo fare qualcosa, volevamo esserci, non volevamo stare in finestra a guardare. Anni dopo, durante i processi, Gilberto Cavallini, uno dei killer di Mario Amato, risponde così ai giudici dei tribunali. Che l'azione, essendo diretta a quello che era il nostro ambiente, doveva chiaramente essere quantificata in un personaggio che come minimo questo ambiente lo perseguitava. Ecco. Questo emerge da... Mi sembra evidente. Altre domande? Quindi l'uccisione è anche in relazione alle indagini che stava compiendo il comitato? No, alle indagini, alla funzione che svolgeva nei confronti dell'ambiente, non di indagini precise. La smette di accreditare questa tesi fantasiosa. È una spiegazione simile a quella fornita da Valerio Fioravanti, condannato in via definitiva insieme a Francesca Mambro per la strage alla stazione di Bologna. L'obiettivo è stato scelto e identificato nel giudice Amato per una serie di motivi concomitanti. Il primo dei quali, il più importante, era sicuramente quello che ha indicato Gigi, cioè la necessità da parte nostra di dare un segno evidente, plateale quasi, della rottura che poteva crearsi tra noi e quella serie di apparati dello Stato a cui eravamo stati come minimo simpatici fino a quel momento. E ora che sono passati 27 anni dall'omicidio del magistrato Mario Amato, cosa resta delle sue intuizioni? È stato un sacrificio di un umile servo dello Stato, come ricorda il figlio Sergio Amato. La memoria sia essenziale per le persone direttamente colpite e auspicabile punto di partenza per tutti coloro che operano nell'ambito della giustizia. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dvbiacchessi@radio24.it.